il Signore mi fece vedere due cesti di fichi collocati dinanzi al Tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe deportato Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, e i capi di Giuda, i fabbri e gli artigiani da Gerusalemme, e li ebbe condotti in Babilonia. Il primo cesto aveva fichi assai buoni, come i fichi primaticci, mentre il secondo cesto aveva fichi assai cattivi da non potersi mangiare per quanto erano cattivi. Allora il Signore mi disse: «Cosa stai vedendo, Geremia?» E risposi: «Dei fichi. Fichi ottimi e fichi pessimi da non potersi mangiare per quanto sono cattivi». Allora la parola del Signore mi fu rivolta così: «Così dice il Signore Dio di Israele: come si ha cura di questi fichi buoni, così io avrò cura dei deportati di Giuda che io ho scacciato da questo luogo nel paese dei Caldei per il loro bene. Io poserò il mio occhio sopra di essi per il loro bene e li ricondurrò in questo paese. Li stabilirò e non li demolirò, li pianterò e non li sradicherò più. Darò a loro un cuore per conoscermi, perché io sono il Signore. Essi saranno per me il mio popolo, ed io sarò per essi il loro Dio, perché ritorneranno a me con tutto il cuore. Ma come si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare per quanto sono cattivi, così dice il Signore, così io tratterò Sedecia, re di Giuda, e i suoi principi e il resto di Gerusalemme che rimarrà in questo paese e che abitano nel paese di Egitto. Ne farò oggetto di spavento per tutti i regni della terra, un obbrobrio ed un proverbio, un sarcasmo e una maledizione, in tutti i luoghi ovunque li avrò dispersi. Io invierò contro di essi la spada, la fame e la peste, fino al loro sterminio dalla terra che io ho dato loro e ai loro padri.